Sono ormai passati 20 giorni da quando siamo scesi dall'aereo che ci ha portato a Soleimania, il Kurdistan iracheno. Le prime impressioni che rondano i sensi della nostra delegazione sono di quelle inaspettate, mai provate prima. Un caldo torrido che secca la pelle, un pungente odore di gasolio e una grande aria di festa. Sono giorni importanti per questa regione, giorni che potrebbero farsi storia sotto i nostri nasi, giorni di elezioni. Manca meno di una settimana a quel referendum sull'indipendenza del Kurdistan iracheno che ha tanto fatto discutere quelle potenze che hanno interesse nello scacchiere medio orientale. Si parla di Turchia, di Stati Uniti, di Russia, di Iran, di Israele, di Arabia Saudita, di Siria. Nonostante sia solamente una tornata consultiva, è evidente come la pronosticata vittoria del sì possa rappresentare un primo passo che il padre padrone del Bashur, nome che i curdi danno al Kurdistan iracheno, Massoud Barzani, ha intenzione di intraprendere per cominciare quel tanto atteso progetto di emancipazione da Baghdad. Il febbricitante sentimento nazionalista che avevamo percepito all'arrivo viene però presto spogliato dalla sua falsa veste propagandistica e bastano poche conversazioni con la gente di Soleimania per confermare i nostri dubbi e capire che la questione indipendentista non è assolutamente prioritaria fra i problemi dei curdi. Purtroppo le contingenze non ci permettono di approfondire la questione sul campo. Ma d'altronde il motivo per cui abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio in Medio Oriente non è il referendum. Ciò che ha spinto compagni e compagne di molte delle nostre città a formare questa delegazione è la necessità di comprendere e di provare a vivere quanto possibile di ciò che sta avvenendo nei territori liberati e combattenti del nord della Siria. Una rivoluzione costruita attraverso 40 anni di lavoro e sacrifici, ma che tanto ha sorpreso il mondo in questi ultimi anni. Parlo dell'esperienza del Rojava. Con il desiderio di portare solidarietà a un processo rivoluzionario in atto e con l'ambizione di estrapolare prassi e teorie da ritematizzare nei nostri contesti, come organizzazione nazionale InfoOut abbiamo deciso di inviare una delegazione di militanti al fine di conoscere e inchiestare le realtà del campo profughi di Mahmur, primo esempio di confederalismo democratico applicato, e dei territori della neonata Federazione della Siria del Nord. Territori che, ricordiamo bene, continuano ad essere in guerra. Perché le popolazioni del Kurdistan siriano in questi mesi, oltre a proteggere i loro principi rivoluzionari dalla ormai quarantennale ingerenza fascista turca, stanno respingendo metro dopo metro, villaggio dopo villaggio, la barbarie dell'ISIS. E non sono i vari Salvini, i vari Le Pen o i Trump, e neanche i vari Renzi o i vari Minniti a bloccare l'avanzamento dello Stato Islamico. Bensì il coraggio e i caduti di un popolo che risponde alla guerra con partecipazione dal basso, con l'autogoverno e con tolleranza e fratellanza fra popoli e culti. Raqqa è stata quasi totalmente liberata e sul fronte di Deir ez-Zor le YPG e le YPG avanzano inarrestabili. E se a sud si combatte contro Daesh e a nord contro la Turchia, il Rojava sta iniziando a riorganizzare la società tramite i principi del confederalismo democratico. Qui il potere è tutto incentrato sulle comuni, aggregazioni micropolitiche che comprendono nuclei abitati delle dimensioni di villaggi o quartieri, che si autogovernano collettivamente. Le assemblee hanno il potere, volendo, di collettivizzare terreni, imprese e anche il lavoro. Abbiamo visitato le comuni dei quartieri di Derik e il villaggio di Karudie, stupendoci del livello di partecipazione presente in ogni dimensione della società. Un altro elemento fondamentale della rivoluzione è la questione di genere, se non la prioritaria. In Rojava ogni organo istituzionale è presieduto obbligatoriamente da un uomo e da una donna. Nulla a che vedere con il concetto tutto europeo delle quote rosa. Le donne, infatti, hanno diritto ad auto-organizzarsi tramite enti separati autonomi in campo militare, politico e sociale. Abbiamo visitato la Congrastar, l'Organizzazione Generale Sociale Femminile, la Malajin di Kamchiro, luogo di incontro dove le donne si riuniscono per discutere delle problematiche della vita quotidiana, e il Jinvar, villaggio in costruzione dove potranno alloggiare tutte quelle donne che non hanno intenzione di sposarsi o vogliono emanciparsi da una concezione patriarcale della società e della famiglia, autogestendosi in comune. Ma uno dei momenti più toccanti è stato il primo festival delle giovani donne nel nord della Siria, dove assistiamo a tutta la gioia, l'esuberanza, la frenesia delle ragazze che ci mostrano cosa rappresenta la rivoluzione per loro, con danze, canti e rappresentazioni teatrali. La questione femminista è un elemento fondamentale della rivoluzione confederale e funge da avanguardia nel processo di liberazione dell'umanità tutta, uomini compresi. Non può esistere una società libera senza donne e uomini liberi. Non esiste libertà degli uomini senza la liberazione della donna. Assieme al movimento femminile esiste un altro elemento che agisce da motore della rivoluzione, i giovani. Questi ultimi vengono ritenuti gli anticorpi della società, i principali attori di qualsiasi evoluzione e trasformazione del confederalismo democratico. Siamo stati più volte ospitati nei centri dei giovani di Derik e a Kamschilo, dove conosciamo ragazzi e ragazze di tutte le età che riscoprono una socialità alternativa, lontana dalla distruzione della guerra, dalla quale sembrano essere tutti tristemente a conoscenza. Visitiamo anche il Ministero della Gioventù, dove i due co-presidenti ci raccontano la gestione di queste infrastrutture e le campagne di sensibilizzazione contro droghe, lavoro minorile e matrimoni con minorenni, pratica purtroppo diffusa in Medio Oriente. Prima di salutare il cantone di Cisre, punta orientale del Rojava, veniamo accolti dalla co-presidente della Federazione della Siria del Nord, che ci racconta delle strategie politiche ed economiche della neonata federazione, che evidenziamo di come perda la nomenclatura Rojava, almeno in termini istituzionali, che rappresenterebbe un'esclusione per tutte le popolazioni non curde, come assiri, arabi, turcomanni. Ricordiamo che la parola Rojava significa ovest in lingua curda. Tutte queste strategie sono finalizzate ad impedire le ingerenze dei potentati stranieri, ad esempio sulla gestione delle risorse energetiche, sulle quali è limitata per Costituzione l'investimento privato. L'emozione è tanta, ma è tanta anche la consapevolezza che la strada da compiere per conoscere questi fantastici popoli è ancora lunga. Nonostante la confusione delle prime settimane, essendo a contatto con un sistema così lontano dal nostro, è chiaro come l'approccio di questa gente rispetto alla minaccia dell'ISIS non sia la formulazione di leggi speciali liberticide come nella grande e democratica Europa. Anzi, qui dove si combatte sul campo ogni giorno, la risposta data dalle popolazioni è una continua apertura verso la democrazia, quella vera, l'autonomia dei territori e la collettivizzazione della vita quotidiana. È importante ricordare che siamo in Rojava non come turisti della militanza, non siamo qui esclusivamente per fare informazione alternativa a quell'immondezzaio dei media istituzionali, ma siamo qui come rivoluzionari. Come rivoluzionari ci siamo posti e come rivoluzionari siamo stati accolti. Noi perché noi siamo in Rojava perché vogliamo la rivoluzione. Da Kamschilo ringraziamo enormemente gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa con il proposito di riaggiornarci fra una settimana in collegamento dalla combattente città di Kobane. Serkeftin o Serkeftin?